Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Peggio di come ha giocato l'Italia da tre sere a Tbilisi non credo sia facile. D'altra parte è vero anche che c'è chi sta peggio, a cominciare dall'Argentina. Direi Argentina e Francia in ordine di gravità. Ne parliamo oggi con Roberto Beccantini, la firma calcistica della Stampa, per capire insieme come si potrebbe rimediare per quanto riguarda l'Italia e che cosa rischiano invece in realtà argentini e francesi. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Lippi dice, per la verità, avendo una buona dose di ragione, che in qualificazione l'Italia ha giocato male spesso, e oggettivamente è vero. Così male io dico mica tante volte. Sì, è vero. Noi siamo una nazionale da competizione ufficiale e terminale. Negli anni che vanno da un torneo all'altro veramente siamo forse una nazionale da evitare, proprio sul piano del gusto e del livello, senza arrivare ai livelli estremisti, etico-estetici di Sacchi, è così, però certo, come sottolineavi, in Georgia nel primo tempo abbiamo toccato ben oltre che il fondo. Come si fa a rimediare? Ci vuole della qualità e speriamo di trovarla. Io penso sempre a Cassano, che non reputo Maradona, però in queste condizioni un salto, un'occhiata gliela darei. Cioè, peggio giochi e peggio diventa difficile teorizzare incompatibilità vere o presunte di un giocatore che insomma, nel suo club la parte la fa sempre e anzi dà segnali costanti di miglioramento, non soltanto tecnici, che quindi non c'era vero bisogno, ma anche comportamentali. Questo mi pare. Sì, è vero. Cassano ha 27 anni, ha fallito la grande occasione che la storia gli ha offerto, il Real Madrid, ha fatto un grande europeo nel 2004, ha fatto un europeo da impiegato nel 2008, secondo me, sì. Però da come sta giocando e da come si sta gestendo, se le informazioni che ho non sono campate in aria, è un giocatore da tenere presente. Magari Lippi lo sta tenendo presente, solo che magari lo caverà fuori dal cilindro più avanti. Questo non è nemmeno da escludere. Leggevo oggi, tra le tante analisi, ne ho letta una, doc, perché se parliamo di centravanti e di prime punte, uno come Boninsegna mi pare abbia qualche titolo per parlare. Boninsegna, senza stare a farla tanto lunga, ma sottolinea in pratica un errore di grammatica di Lippi dell'altra sera, perché dice due come Iaquinta e Rossi non possono giocare insieme perché nessuno dei due è una prima punta, e se nessuno dei due è una prima punta, la squadra come sale? A chi si appoggia? Chi trova da riferimento? Mi pare che abbia ragione in questo. Se penso alla nazionale del 94, quella di Sacchi negli Stati Uniti, Boninsegna avrebbe potuto spaziare su questo concetto. Ah, sicuro. Ecco, sì, certo, anche io sono nato con il calcio per il quale la prima punta era obbligata e anche di una certa robustezza. Per cui figurati, sfonda una porta aperta, anche perché Iaquinta, è vero, è ormai diventato un Ravanelli della situazione, posto che Amauri nella Juventus e per la Juventus sia Vialli, e quindi una seconda punta di fisico, mentre Giuseppe Rossi, lo vedo anche quando gioca nel Villarreal, tende sempre a occupare molto campo ma non altrettanta area, e anche questo è un fatto da tenere presente. Parliamo di quelli che ci sono, visto che abbiamo cominciato con Iaquinta e Rossi, non certamente per colpevolizzare loro, soltanto per farle pulce a un modulo che l'altra sera mi è apparso proprio abbastanza sbagliato. Tra quelli che ci sono, insomma, la flessione di rendimento, di creatività più grave, mi sembra quella di Pirlo, oggettivamente. E lì entriamo nel difficile, perché insomma, un attaccante più o meno forse lo rimedi, posto che di fuori classe di scuola italiana oggi non ce n'è, ma un uomo dell'inventiva di Pirlo forse si fa un po' più fatica. Certo, l'idea di riportarlo un po' più avanti rispetto alla posizione territoriale che avevo occupato nel Milan di Ancelotti non è secondo me un'idea peregrina, anche perché, Gigi, considero Cassano una seconda punta, non proprio un trequartista. Poi è chiaro che dalla cintola in su, se hai determinati equilibri e certe coperture, puoi far molto se non tutto, però ecco, Cassano mi sembra non proprio un trequartista. Pirlo potrebbe ritornare a farlo, perché già lo faceva in Gioventù, quindi anche questo può essere una ipotesi di lavoro sul quale da approfondire. Adesso penso che sia, noi ci qualifichiamo, Poi è chiaro che Lippi metterà mano alla, certo, alla sua inventiva, se quanto le è rimasta, gli è rimasta appunto per lavorare su questi dettagli che però sono importanti. No, ma anche perché c'è gente che invece rischia davvero di non qualificarsi. C'era ancora un tema a proposito di ristrutturazione, volevo sapere la tua opinione. Sul ricorso agli oriundi, proprio la stampa stamane, no? Ricorda, sì, con due belle formazioni, ma anche proprio ben, graficamente ben rappresentate, come l'Italia Mondiale del 34 si giovò al massimo livello di tre pedine come Monti, Guaita e Orsi, che erano tre giocatori chiave. Quella del 58, che invece per la prima volta e ultima, speriamo, nella storia dei mondiali, non si qualificò, ne aveva quattro addirittura, Ghigia, Montuori, Da Costa e Schiaffino, eppure anche questi quattro grandi giocatori, soprattutto Schiaffino, non bastarono. Tu, rispetto agli Amauri, ai Tiago Motta, come ti colloco? Allora, guarda, io mi collogo nel rispetto della legge, sono favorevole, capito? Poi è chiaro, come mi diceva anche l'avvocato Campana, che è un romantico, come spero di essere rimasto un po' anch'io, vede tanto interesse in queste scelte, soprattutto. Però poi, se l'interesse porta a un rendimento e a un comportamento, come per esempio quello di Camoranesi in azzurro, posso anche turarmi il naso. Fondamentalmente sono contro qualsiasi tipo di proibizione, nella speranza che poi sia il senso della misura a orientare il percorso. Certo, a non portare agli eccessi. A non portare agli eccessi di Belfort. Di fine anni 50, esatto, proprio quelli. Oh, l'Argentina, strabattuta in casa dal Brasile, è attesa mercoledì in trasferta dal Paraguay, poi una partita facile in casa col Perù e l'ultima la gioca a Montevideo in casa dell'Uruguay. Sarebbe il colmo se l'Argentina restasse a casa, ma non è poi così remota la possibilità. È vero, dopo la sconfitta, che secondo me è stata più netta dello scarto subita contro il Brasile sabato notte per noi a Rosario. Certo che c'è una bella differenza fra l'Argentina di Maradona, che vedevo nel 1985 Gigi conquistare, tanto per essere nel tema di queste qualificazioni sofferte, in extremis, all'ultimo minuto dell'ultima partita col Perù in casa, il 2-2 gol di Daniel Passarella, e poi, come sappiamo, nell'86 sarebbe andato in tutt'altro modo, trionfalmente, capito? Certo. Però l'Argentina di Maradona giocatore conquistava in quelle condizioni, se la cavò così. Capito? Perché se perdeva era fuori, le bastava il pareggio, ma lo ottenne, come ti ho detto, all'ultimo minuto. L'Argentina di Maradona CT è messa nelle stesse condizioni, mi ha molto sorpreso, e d'altra parte, sai, siamo sempre lì. Quando i geni devono fare i maestri, può esserci qualche problema. Con Cruyff non c'è stato, con Diego evidentemente sì. Roberto, rispettiamo la puntualità, perché oggi è il primo giorno del nuovo palinsesto e ci terrei in maniera particolare. Teniamoci un paio di minuti per il dopotraffico, perché c'è il clou, c'è una notizia che arriva dalla Francia, un'indiscrezione, ma insomma che ha buone possibilità di essere confermata, di quelle che valgono la pena. Chiuderei con la Francia, perché la Francia ormai è praticamente certa di giocare per il secondo posto e quindi di dover passare attraverso gli spareggi a sua volta, il confronto diretto che non è mai una formalità. Ma la notizia vera di oggi, da confermare, è in questa rivelazione del Parisien, che cita un duro attacco di Domenech ai giocatori alla vigilia della partita e la seguente risposta, più o meno tra virgolette, di Thierry Henry, capitano, che gli risponde: avremo anche noi qualcosa da dirle, caro mister, parlo a nome del gruppo, ci annoiamo durante i suoi allenamenti, sono 12 anni che sto in nazionale, non ho mai vissuto una situazione così, non sappiamo come giocare, come metterci, come organizzarci, non sappiamo più che fare, non abbiamo un'idea da seguire, un'identità, così non va. Voto. Se gliel'ha detto davvero, voto 11, no? Certo. Che più o meno è quello che la critica francese, ma anche noi, stiamo ripetendo Domenech da alcuni anni, no? Stavolta gliel'ha detto Henry, mi pare. Ma è soprattutto Gigi, secondo me, Henry ha spiegato il film che ha visto, ha capito? Perché, e che noi soprattutto abbiamo visto, una Francia veramente che abbarbicata attorno alle visioni di Zidane, visioni che permisero appunto a Zidane di tornare in nazionale, e sappiamo dove poi portò la Francia in Germania. Domenech è stato conservato, è stato salvato da un sinedrio improvviso e molto discusso, se non discutibile, della Federazione Francese, però chiaramente si è arrivati a un punto di rottura che queste dichiarazioni hanno ancor più evidenziato. A proposito di nazionali sull'orlo dell'abisso, Gigi, ricordare anche il Portogallo, se non altro, del pallone d'oro Cristiano, perché ha messo molto male anche il Portogallo. Eh sì, che è un'altra, insomma, considerato il rendimento del Portogallo negli ultimi europei mondiali, dei mondiali 2006. Sarebbe un altro, è un altro ormai imminente colpo di scena. Roberto, grazie. Grazie a voi. Ci sono già alcuni ascoltatori collegati, ho letto molti vostri messaggi arrivati nel frattempo mentre Beccantini parlava. Di sicuro credo che la sensazione vera di oggi la faccia questo ammutinamento di Henry. Poi ripeto, questa indiscrezione è del quotidiano francese parigino Le Parisien, cita una fonte interna allo spogliatoio, ovviamente non fa il nome della spia come si usa in questi casi, però mi sembra talmente circostanziato e dettagliato, insomma, l'esperienza mi insegna che una cosa di questo genere può essere magari un tantinello caricata, ma inventata di sana pianta non credo proprio. Ripeto, l'attacco di Domenech ai giocatori era stato: spero di vedervi oggi in allenamento, era la vigilia di Francia-Romania, di vedervi oggi in allenamento meglio di ieri, perché non ho visto gente con la voglia di dare tutto per una partita così cruciale. E a quel punto la parola l'ha presa Thierry Henry, che si è alzato e gli ha detto: avremo anche noi qualcosa da dirle, parlo a nome del gruppo, e poi gli ha mollato quel carico da 11 che avete già sentito. Samuele, collegato alla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno signor Galanzini. Dica. Allora, volevo dirle una cosa sul fatto di Cassano, che non mi è piaciuto anche la parte sua che cercava sempre di difendere Lippi su questa cosa qua di Cassano. Non perché Lippi non avesse le credenziali, però quando una cosa è talmente palese che un ragazzo, vabbè, ha fatto i suoi errori, vabbè, siamo d'accordo di tutto, però va rivalutato e va data una possibilità, cioè, o almeno spiegasse il perché. Perché io non riesco a vedere qualcuno meglio di lui adesso da mandare in nazionale, che ci faccia fare un salto di qualità. Tutto qui. Può essere che... Io credo che non è che Cassano sia migliorato così tanto in questo periodo da essere l'unico oggi a poter far fare il salto di qualità, che è talmente peggiorata l'Italia da autorizzare la possibilità che Cassano possa davvero farle fare il salto di qualità. Poi io ricorderei anche sempre alcuni parametri che lo stesso Beccantini ha già ricordato. Cassano ha dilapidato un capitale, insomma, è andato avanti quasi 10 anni a dilapidare il suo talento, no? Perché emerse a 17 scarsi e adesso ne ha 27 suonati. Si è affermato in maniera, speriamo, definitiva, perché sarebbe ora, sinceramente, con quel talento, nella Sampdoria, dove non dico che tutti giochino per lui, ma certamente qualcosa in più gli permettono, gli consentono, sia in fatto di atteggiamenti, sia in fatto di coperture, no? Cioè gli danno tutta l'assistenza possibile. Nel calcio internazionale funziona in maniera un po' diversa, cioè ciascun giocatore deve essere autonomo in campo e deve sapere anche aiutare la squadra, e non solo essere aiutato, comunque si chiami. Detto questo, è indubbio che la crisi di gioco, non tanto dei risultati, perché alla fine poi l'Italia si qualifica, la crisi del gioco dell'Italia di oggi è tale da rendere sempre più improbabili alcuni ostracismi. Io non credo che Lippi convocherà Cassano, non certamente per la Bulgaria, perché ormai è dopodomani e non è convocato. Non credo nemmeno che lo convocherà per le tappe successive. Penso che se Cassano va avanti così, nella prossima primavera, e quando cioè si tratterà di perfezionare, poi di mettere a punto il gruppo che Lippi convocherà per il Sudafrica, penso che Cassano a quel punto, ripeto, se va avanti così, abbia qualche chance in più. Angelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini, la ringrazio. Dica. Dunque, non è che io sia polemico oppure ce l'ho con Lippi, però vedendo questi atteggiamenti che Lippi dice, no, che non siamo attaccati a questa nazionale, mi dà il dubbio. Però se quando c'era Donadoni, se avesse fatto queste cappellate che sta facendo Lippi, forse l'avrebbero lapidato. Per me non è stato aiutato molto da allora dai famosi responsabili dell'Italia. Anche quando è andato all'Europeo hanno fatto di tutto per non tutelarlo, già arriva Lippi, però quando Lippi è arrivato aveva già fatto tante partite per la nazionale Donadoni e mi sembra che era in testa il suo gruppo. Indubbiamente Donadoni non ha goduto della copertura mediatica, ma soprattutto dirigenziale. Di cui può godere Lippi. D'altra parte Lippi ha vinto il campionato del mondo, questa è una apertura di credito totale che un commissario tecnico si merita. Poi è ovvio che se per pura sventura la prossima avventura in Sudafrica dovesse andare come è andata quella di giugno, io credo che poi tutto verrebbe ribaltato, come sempre accade in questi casi. Leonardo Bari è caduto, ma caduto, voi avete ormai imparato il gergo, è caduta la linea. Allora io farei una bella parentesi su Flavia Pennetta, perché stanotte ha compiuto una rimonta strepitosa contro la Svonareva nel terzo set a Flushing Meadows. Era sotto di un set e si è giocata un tie break dentro o fuori, è rimasta dentro e a quel punto è partita insomma, a briglie sciolte e l'ultimo set l'ha vinto per 6-0 con lacrime dell'avversaria, che tra l'altro ha anche qualche problemino alle ginocchia, che erano fasciate, insomma chi ha visto il match o chi ha visto le sintesi c'era un minimo anche di, non dico di scena, ma di suggestione, no? di questa grande tennista come la Svonareva, che non è certamente nelle sue condizioni migliori, ma aveva sfiorato il capolavoro, visto che la Pennetta ha dovuto annullare la bellezza di 6 match point all'avversaria. Ora arriva Serena Williams, che è testa di serie numero 2, ed è l'ostacolo contro cui ragionevolmente la Pennetta fermerà il suo cammino, ma non è detto poi che vada così. E in ogni caso è arrivata ai quarti di finale di Flushing Meadows. C'è Fabio da Genova, buongiorno. Buongiorno, sono Ganzini. Senta, io mi telefono da Genova, sono un tifoso sampdoriano, però blando, non di quelli passionari. L'unica cosa che volevo dire riguardo di Cassano, sono d'accordo con lei per quanto riguarda il primo anno della sua avventura alla Sampdoria, in cui qualche strascico di comportamento che già aveva fatto mostra di sé nel periodo del Real Madrid ancora vi era, ma mi pare che il ragazzo negli ultimi tempi si sia abbondantemente ravveduto, sia come comportamenti in campo che soprattutto nei comportamenti fuori dal campo. Ora, che una squadra del valore della Sampdoria possa giocare un po' di più per lui credo sia anche cosa giustificata, acclarata, ma mi pare che quando c'è un fuoriclasse nell'ambito di una squadra, sia di club che della nazionale, un giocatore che può fare veramente la differenza, mi pare che sotto il punto di vista tecnico lo possa fare, tutti giochino un pochino più per il fuoriclasse. Sì. Ora, mi pare che sia stato dato anche in altri campi delle possibilità a persone che avevano combinato ben di peggio di quello che ha fatto Cassano. Non vedo per quale motivo in una situazione in cui sta versando la nazionale italiana di assenza completa di fantasia, perché non provare? Peggio di così credo che non si possa. Ecco, ma questo infatti il ragionamento di base è questo. L'errore di fondo è di considerare Cassano un fuoriclasse. Sono parole che bisogna andare piano a spendere, no, se non vogliamo fare i piazzisti come fanno ormai certi telecronisti. Allora, fuoriclasse la Suma perde, come si dice dalle mie parti, nel basso Piemonte. Lasciamo perdere l'aggettivo fuoriclasse, o la parola, o la qualifica, o l'etichetta. Parliamo di un giocatore che, stante la crisi di fantasia, di gioco e di qualità che c'è attualmente in nazionale, a questo punto avrebbe diritto di tornarci. Tornarci significa riprovare a fare quella differenza che il nazionale non ha mai fatto, comunque, perché anche questo può essere uno dei motivi che frena Lippi. Due suoi predecessori hanno provato Cassano, e mentre Trapattoni lo ricordava prima bene, Beccantini nel 2004 un certo ritorno l'aveva avuto, niente di decisivo, niente da fuori classe, ma tante belle, alcune belle cose certamente sì, in una nazionale un po' al capolinea, non altrettanto si può dire che sia accaduto nel 2006, quindi anche questo potrebbe essere un ragionamento che Lippi fa. La Francia calcistica, ma anche la Francia giornalistica, è letteralmente in subbuglio per questo caso Henry, cioè per, vi dicevo prima, delle parole che Henry ha detto in spogliatoio, che sono insomma, sono trapelate. Il discorso, la risposta che Henry da capitano ha dato in spogliatoio a Domenech alla vigilia di Francia-Romania. La cosa è abbastanza incredibile, ma che si spiega anche con quello che ci raccontava prima Becantini, cioè con questo immobilismo di una federazione, quella francese, che già non aveva avuto il coraggio di prendere i provvedimenti necessari nei confronti di Domenech parecchio tempo fa. Quindi c'è questo immobilismo abbastanza inspiegabile, perché questo episodio risale a venerdì. Sabato c'è stata la partita che la Francia ha soltanto pareggiato con la Romania, in pratica finendo fuori dal mondiale, perlomeno fuori dal primo posto, da quelli che si qualificano automaticamente, dovendo poi passare attraverso gli spareggi. Siamo lunedì mattina, è esplosa questa che Le Figaro ha definito, sto vedendo il sito Le Figaro, ha definito una bomba a scoppio ritardato, e cioè l'invettiva vera e propria di Henry nei confronti del suo allenatore alla vigilia della partita. E in tutto questo l'unica a tacere è la federazione, mentre dall'Equipe al Figaro, a Le Monde, a tutti i più grandi quotidiani francesi, per non parlare delle televisioni, sono ovviamente in ebollizione per un episodio di questa gravità. C'è ancora in linea Saverio, ha chiamato da Bari, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Dica. Lei può immaginare quello di cui... Sì, è ben per quello che ne farei a meno, sinceramente. Comunque lei dica. Pronto? Sì, dica. Mi ascolta? Certo, con forte, chiaro. Niente. E con... Ascolti, è venuta alla Nazionale Bari un po' di mesi fa per la partita. I baresi e i pugliesi sono rimasti molto delusi per l'assenza di Cassano, per il fatto che il commissario non ha voluto, specialmente in quell'occasione, insomma, inserire Cassano nella Nazionale, almeno per una frazione di tempo. Comunque sia... Questo fa onore a Lippi, secondo me. Prego? Perché questo fa onore a Lippi, secondo me, perché se un commissario tecnico dovesse fare la Nazionale in base alla geopolitica, allora la Nazionale va in giro a fare non so, raccolta di fondi, che sarebbe nobilissimo, oppure va in giro a fare propaganda. Ma insomma, se deve giocare la Nazionale, non è che uno si gioca a Bari e convoca i baresi e gioca a Firenze e convoca i fiorentini, eccetera eccetera. Il tempo delle signorie, che ne pensino in certe parti d'Italia, è passato, credo. Mi lascia terminare il pensiero? La prego, Saverio. Niente, insomma, Cassano non sarà un fuoriclasse, anche perché è abbastanza giovane, però è una persona che gioca a calcio, che fa divertire e che tutte le volte che si esibì di Nazionale è riuscito comunque a dare il suo contributo. E voglio dire, sicuramente io da suo concittadino ho il magone fin quando non lo rivedrò a giocare in Nazionale. Mi è dispiaciuto che è venuto a fare in Nazionale e il commissario Tex, almeno per una frazione di tempo, non abbia inserito. E io penso che con questa Nazionale Cassano ci voglia. Sicuramente lui è maturato per quanto riguarda i comportamenti in campo e fuori campo, e siccome comunque il suo talento tecnico non lo si discute, magari vorremmo rivederlo, io dico auspico che il suo tecnico, con la sua infinita bontà, vorrà considerare, insomma, questi meriti oggettivi, capisce, non soggettivi, non di una signoria. Grazie Saverio, l'abbiamo capito e in buona parte condiviso quello che lei sta dicendo. Dopodiché, se pensate di occupare l'etere per gli appelli pro Cassano, secondo me avete sbagliato indirizzo, cioè o lo fate su, ci sarà una radio della Nazionale, una radio web della Federcalcio. Qua sinceramente non capisco, ringrazio anche per la partecipazione, ma insomma, tra l'altro siamo ad alcuni mesi dal mondiale e non mi pare che manchi il tempo. Poi certamente non manca il tempo a Cassano per convincere Lippi a suon di gioco, no? a forza di gioco, di giocate, di colpi e di comportamenti. Carmine Antonio Perrotta ha mandato una mail per far notare, perché ogni tanto poi ci si dimentica delle cose più insomma, si cercano i particolari, no? per l'appunto come si sta facendo oggi, e si dimentica il quadro d'insieme dice è che per nostra fortuna, scrive Carmine Antonio, siamo capitati nel girone più facile d'Europa e quindi non sarà una grande impresa quella di qualificarci, ma se fossimo capitati in un girone semplicemente come quello della Francia, preferirei non pensarci. Credo abbia ragione lei, perché Un altro ascoltatore scrive: dal punto di vista del gioco, scrive Daniele da Venezia, ho visto Francia e Romania, la Francia con la Romania ha sicuramente giocato parecchio meglio dell'Italia, quindi insomma, nelle varie fortune che vengono ascritte a Lippi c'è anche quella indubbiamente di un sorteggio che pure mi pare risalga ancora all'epoca Donadoni, perché regnava ancora Donadoni quando venne effettuato questo sorteggio mondiale. Gianni ha chiamato da Siracusa, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, chiamo per Cassano. Secondo me Cassano è un fuoriclasse, a me si ricorda un po' Rivera prima maniera. Comunque, lasciato le opinioni nel calcio. Rivera è talmente signore che non querelerà mai. Anche perché era un suo grande tifoso. Lo può dire tranquillamente. Circola una notizia sui vari blog su internet, per cui Cassano non sarebbe chiamato da Lippi, perché ai tempi della Roma, quando il figlio di Lippi era all'Agea, hanno avuto un diverbio, pare che Cassano sia passato alle vie di fatto. Ora, se circolano queste notizie, penso che il commissario tecnico farebbe bene a sgombrare il campo da queste voci e dire chiaramente il motivo per cui non lo chiama. Io non credo che un commissario, se un commissario tecnico deve, io non, per carità, lungi da me il ruolo di difensore d'ufficio di Lippi, che come sa chi mi segue non mi è mai nemmeno stato particolarmente simpatico, ma se un commissario tecnico deve mettersi a inseguire le indiscrezioni sul web, allora è veramente la fine. Credo che non ne siamo molto lontani, ma sarebbe davvero la fine. Da Roma ha chiamato anche Marco, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare, visto che Lippi è un ripescato perché è venuto dopo, è ritornato, sì. Io metterei Totti a centravanti, Balotelli a destra e Cassano a sinistra, e in difesa toglierei Cannavaro per metterci Materazzi, perché Cannavaro io l'ho visto anche l'anno scorso con Real Madrid, non lo vedo proprio tanto tanto in forma. Lei che ne pensa? Il contrario, Marco, esattamente il contrario suo. Contrario, e cioè nessuno di quelli che ha detto lei, tanto meno Materazzi, che mi sembra ormai impresentabile a qualsiasi livello, quindi figuriamoci a un livello internazionale alto. Contrario, ecco, per cui sì, che si fa prima. Sentiamo, proviamo a cambiare argomento, e visto che anche questo ci riguarda, no, non dico da vicinissimo, ma insomma non da così lontano, perché qualora l'Argentina dovesse fallire la qualificazione al mondiale, beh, sarebbe un mondiale più povero. Io credo che il mondiale sia tanto più bello e divertente da seguire quanto più ci sono le grandi squadre e i grandi campioni. Ricordava prima Becantini che molto probabilmente si dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, e pazienza per Ronaldo, non per il Portogallo, che mi dispiacerebbe non vedere. Ci dispiacerebbe, immagino, non vedere la Francia e non vedere l'Argentina, perché comunque sarebbe un mondiale più povero di talenti e di divertimento potenziale. Allora quella dell'Argentina è davvero una situazione difficile, perché è atteso da una trasferta in casa del Paraguay dopodomani, poi avrà in casa una partita facile col Perù, ma poi dovrà andare a giocarsi l'ultima a Montevideo in casa dell'Uruguay, e a questo punto è seriamente a rischio eliminazione. Dopo la sconfitta secca in casa con il Brasile, sentiamo Diego Maradona. Sappiamo chi veniva a cabecear, sappiamo come cabeceavano. Sentiamo molta rabbia, sapevamo chi di loro era forte di testa, conoscevamo la posizione e la pericolosità dei calci piazzati di Elano e André Santos, sapevamo che Luisão e Lúcio salgono molto sulle fasce e che Maicon verticalizza con Luis Fabiano. Luisão e Lúcio venivano sempre, che Maicon iba con Luis Fabiano. Avevamo preparato tutto nella pretattica, ci sono scappati via, sono stati più veloci. In tre azioni ci hanno messo tre gol, poteva anche andare peggio. Io credo che il Brasile, ganando la Coppa Confederazione, hanno però una grande squadra, hanno vinto la Confederation Cup, hanno saputo controllare la partita, ci hanno fatto gol di testa e hanno dei buonissimi giocatori. È un Maradona provato da questa sconfitta, da questa situazione dell'Argentina. D'altra parte l'Argentina tutta, perché poi il calcio già pesa da noi, ma insomma in Argentina e Brasile per esempio pesa ancora più che da noi, parecchio più che da noi. Tutta l'Argentina è provata da questa sconfitta e da questa eventualità di dover addirittura rinunciare all'appuntamento con il Mondiale. Bob ha chiamato da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei parlare della tessera del tifoso. un attimino. Sono andato l'altro giorno a vedere Palermo Fiorentina, Fiorentina Palermo, con un mio amico canadese. Prendo il biglietto, carta d'identità, data di nascita, arriviamo allo stadio. Pronto? Sì, sì, dica. Sì. Allora arriviamo allo stadio e ci fanno andare tutto bloccato, ci fanno andare dove dobbiamo andare, controllano due volte il biglietto, carta d'identità, entriamo nella curva, la curva ferrovia. Allora andiamo, non c'era una persona per informazione. La prima volta, io andavo allo stadio anni fa, ma era un bel po' che non ci andavo, per chiedergli dove sedersi, cosa fare. Finalmente trovo uno, dico: scusi, in questo biglietto dove devo andare? A dove vuole, il numero non conta niente. Bene, grazie. Allora andiamo su, ci sediamo, la partita inizia, quelli davanti a noi in piedi a tifare. Chiediamo: scusi, si potrebbe sedere un attimo? Cioè, non vediamo, c'è un sacco di persone dietro che non vedono. Si girano: no, qui in curva si sta in piedi, se no andava a sedersi lì, e mi indica l'altra parte dello stadio. Cioè, il biglietto, cioè, la tessera del tifoso non serve, serve eliminare, non eliminare, scusi, ma mandare via certe persone dello stadio o rimettere la polizia. Bob, il suo accento ci induce tutti quanti a pensare che lei scenda da Marte, non, forse non soltanto arrivi da un paese straniero. Se lei pensa, se lei davvero razionalmente pensava di poter andare in una curva italiana, una curva qualsiasi, non importa la città, e sedersi e pretendere che quelli davanti stessero seduti, io credo davvero che abbia sbagliato paese. Poi mi auguro che Firenze le sia piaciuta per tante altre ragioni, e immagino che la prossima volta l'esperienza calcistica la farà semmai davanti alla TV oppure in un altro paese. Grazie della sua testimonianza. Mi auguro siano tanti stasera i milanesi e quelli che vivono nei dintorni di Milano, ma certamente sono graditi anche quelli che arriveranno da lontano, in tanti, mi auguro, ripeto, ad accorrere alle 20.45 a San Siro per Milan-Real Vecchie Glorie, con tanti protagonisti i cui nomi evocano epoche diverse, che poi vi leggerò, ma considerando soprattutto che questa, l'intero incasso di questa partita viene devoluto alla ricerca per la SLA e fa parte di una serie di incontri in giro per l'Italia organizzati per sostenere e aiutare la Fondazione Borgonovo. Tra i presenti, la difesa storica del Milan, quella del Milan degli anni Ottanta, quindi Galli, Tassotti, Manca Maldini, Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, e poi avanti con Boban, Donadoni, Evani, Virdis, Weah, c'è anche Sebastiano Rossi, Simone, Ganz, Evani, Stroppa, ma anche Real Madrid non scherza, perché ci sono Buio, l'ex portiere, Michel, Snyder, Sanchis, Amavisca, Victor, Gallego, quindi un'occasione per, mi auguro, un paio d'ore di sano divertimento, ma soprattutto per sostenere questa battaglia contro la SLA e aiutare così la Fondazione Borgonovo. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 8 settembre 1985. Ivan Lendl si aggiudica gli Open degli Stati Uniti, vincendo la seconda prova dello Slam della sua carriera, dopo il Roland Garros dell'anno precedente. In finale il cecoslovacco si impone su John McEnroe per 3-7-0, stesso punteggio con cui aveva liquidato Noah nei quarti e Connors in semifinale. Con il successo di New York, Lendl risale al primo posto della classifica mondiale. Ci rimarrà per i successivi 5 anni, fino all'agosto del 1990, con una breve parentesi di 3 mesi tra l'88 e l'89, in cui lascerà il primato allo svedese Vilander. Beh, abbiamo anticipato la ricorrenza di domani, visto che domani è l'8 settembre, ma dato che è un banalissimo disguido tecnico, ma visto che domani, 8 settembre, io ho in testa anche un'altra data, facciamo così: il sembra ieri di domani lo farò io, e adesso ascoltiamo anche invece quello di oggi, 7 settembre. Sembra ieri. 7 settembre 1924. Il Genoa vince il suo nono scudetto, pareggiando 1-1 contro il Savoia nella finale di ritorno disputata a Torre Annunziata. I campani erano arrivati a sorpresa in finale dopo aver vinto il campionato di Lega Sud. Sulla carta la sfida sembrava senza storia, ma per i rossoblù liguri superare il Savoia fu più difficile del previsto. Il trionfo del 1924 segna anche la fine del predominio del Genoa. Dall'anno successivo e fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, lo scudetto diventerà una questione riservata a Juventus, Bologna e Inter. I genovani non l'avrebbero perdonato questo scambio di data, perché sarebbe andata persa questa ricostruzione di Nicola Filippone. C'è in linea Francesco, ha chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno Garantini, complimenti a lei e alla trasmissione Radio 24. Tornavo sulla nazionale con una postilla rispetto all'ascoltatore che ha chiamato prima. Peccato che però non si possa andare negli stadi italiani a vedere le partite in curva comodamente seduti. Quello qualificherebbe molto il calcio nel suo complesso in Italia. No, sulla nazionale sentivo parlare di fortuna nei sorteggi, eccetera. A parte che l'Italia gioca veramente male e che ci sono anche altri gironi facili. Mi pare però che le difficoltà di Francia, Argentina, Svezia, Portogallo dimostrino che c'è un livello medio che si è alzato in maniera oppure si è abbassato complessivamente, ecco. Ma comunque è difficile lo stesso qualificarsi. Cioè, mi piacerebbe un po' più di tranquillità nei commenti, eccetera. No, ma su questo al mondiale è comunque un risultato importante. Su questo lei ha ragione, non si può non tenere conto di quanto sia facile obiettivamente il girone dell'Italia. Allora, lei dice che c'è stato un livellamento magari verso l'alto, io propenderei per quello verso il basso, ma per quanto livellamento ci sia, insomma, io credo che una nazionale come quella georgiana, vista l'altra sera, sia poi la. Poi magari anziché vincere pareggi, perché Calazze magari c'è il piedino meno centrato e la testa un po' più, come dire, concentrata sugli interventi, ma magari non vinci nemmeno, però giochi in un'altra maniera, li metti ai paletti, prendi pari, portiere avversario migliore in campo, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo riferirvi da una lettura della Gazzetta di stamane, un episodio, giusto per ricordare sempre, ma questa la dedico a Bob, a quell'ascoltatore di prima che ci ha dato questa testimonianza, per carità, sorprendente per lui, ripeto, per noi purtroppo un tantino meno, dedico a lui un altro, perché è giusto a inizio stagione far subito una rimpatriata che ti dia l'idea di dove stai, no? Allora, noi Cattaro Cisco Roma, partita di ieri. Di campionato, dopo uno scontro involontario di gioco, Dudu, che è un difensore senegalese della Cisco, ex giocatore di Serie B tra l'altro, ha giocato anche nel Torino io credo, aiuta l'attaccante del Noi Cattaro De Lorenzo a rialzarsi e questo gli risponde, lo invita a rialzarsi e gli porge la mano per tirarlo su. Il simpatico De Lorenzo, attaccato a Noi Cattaro, gli risponde: non lo fare più, negro di merda. Ora, per fortuna l'arbitro era a due passi e lo ha espulso. Adesso c'è indubbiamente un minimo di curiosità da parte mia, sicuro, ma spero anche da parte di alcuni di voi, per sapere che tipo di provvedimento prenderà il giudice sportivo, perché una cosa del genere sentita dall'arbitro e segnata a referto è un po' diversa finalmente, no? Dalle denunce che questi giocatori di colore spesso fanno e dicono: durante la partita mi è stato detto questo e quest'altro, eccetera. Questa l'ha sentito l'arbitro e l'ha scritto. Mo' vediamo. Antonio da Roma, buongiorno. Signor Garantini, buongiorno. Senta, io sono un tifoso del Torino, ma non voglio parlare della squadra e della società. Voglio mettere in risalto un evento. Finalmente, dopo 60 anni dalla caduta del grande Torino, la lapide di Superga è illuminata. Pensi un po' che a Torino e nel Piemonte non ci ha mai pensato nessuno. Il nostro presidente dei Fedelissimi Granda di Roma, a sue spese, ha provveduto, scusi, sono un po' emozionato, guardi, dopo tante cose fatte, perché nessuno gli aveva permesso, è riuscito a far illuminare la lapide di Superga. Perciò dal giorno 3 settembre Superga è illuminata. Antonio, grazie di questa testimonianza, di questo racconto appassionato, e grazie a, evidentemente anche a questa persona, no? Che si è assunto questa, questa iniziativa. Dunque, si diceva di Oriundi, se ne parlava prima con Roberto Beccantini, se ne parlerà a lungo, in molti ascoltatori hanno scritto, per esempio Nicole, non saprei bene perché è scritto in maniera un poco chiara, da Bergamo scrive: io non sono completamente in disaccordo con chi vuol portare giocatori naturalizzati in nazionale, ci sono norme che parlano chiaro, però vorrei ricordare che Camoranesi ha accettato la convocazione in nazionale non per chissà, per chissà quale spirito italianista, ma perché in Argentina non sarebbe mai stato convocato e a Mauri mi pare stia facendo un percorso molto simile. Condivido, è d'accordo anche Azeglio Vicini, non faccio in tempo a leggere quello che ha dichiarato, lo farò domani perché mi pare che il vecchio Azeglio abbia centrato il problema. Nel frattempo, grazie a Filippo Aurelio in regia, Flavio Suardi in redazione, vi lascio al giornale radio.